mangiato? Gelato. Sono amiche. Il mare ne è più da tre giorni. Via tre ne esiste, da 50. Da quanto? Quella è 50. 50. La marina c'è che da tre giorni fanno l'ultimo. Presentare il video.